che sono così, così stronzi che daranno anche fastidio. Mi è capitato di vedere con le telecamere, una notte erano in calore delle gatte, sono andate vicino alla volpe e sono coricata, gli erano mostrate, quella si è offesa, le ha mostrate denti. Addirittura, no, qua cinghiali ci sono, volpi non li ho visti ancora, però cinghiali sì. Va bene, dai, continuate, io faccio qualche altra cosetta e poi già dopo... Poi dopo ci sentiamo, ok? Vai Natalia. Sì, vabbè, là. Buon proseguo, qua. Ci sentiamo dopo al limite. Avanti, Gianfranco. D'accordo, qua. A dopo, là. Stiamo bene. E ricordami ogni tanto quando scade quella cosa, perché io me ne dimentico, così la mandiamo insieme. Ehi, Gianfranco, devo controllare, ma mi sembra il prossimo anno, eh? Mi sembra il prossimo anno. Sì, sì, forse sì, è il 22. Credo sia il 22. Vabbè, tanto non credo che ci abbiamo tanto lavoro oramai. Sono tutti in letargo. Ma per le autorizzazioni generali non è che ci mettono molto. Va bene, va bene. Tanto io potrei anche non farle, ma lo faccio perché la voglio tenere. Infatti ho montato il bibanda. È acceso però non c'è antenna. Devo piazzare l'antenna, l'X300, cando una giugana e la piazzo là giusto così per ascoltare, magari salutare qualcuno, se no mi danno per morto. Va bene, avanti Natalie, ci sentiamo dopo che mi sta chiamando moglie. Cappa, va bene, riprendi Gianfra, che lo sta chiamando la moglie a quel pedibella. Adesso lo mette a lavorare almeno. E allora, l'ha messa a lavoro in corso. Chi c'era? Qualcuno sta chiamando piccolo piccolo, perché io ho lo squalcerato che poco fa c'erano, che erano i suoi tedeschi o russi, cosa era? C'è qualcuno? No? Adesso è se uno sceso dal USB 4M. Meglio così, io pure ho messo lo squelch, troppo rumore, cioè stamattina ho dovuto mettere lo squelch. Stavo parlando in Giulio perché c'era una propazione così brutta e abbiamo sentito uno da Taranto, però questo qui c'aveva la radio troppo bassa, c'era troppo QRM. Dipende dalle giornate, com'è? Dipende dalle giornate. Ma sono le... sono già le 7:20. Allora sai che mi hai fatto venire e mi hai contagiato lo sbadiglio. Sì. Oggi giornata fiacca, veramente. Anzi no, devo fare la cosa, non l'ho anche fatta perché non avevo voce. Poi devo controllare alcune cose. Mamma mia, quante cose io bisogna ricordare. Adesso mi cerco con quell'ispettore se c'è qualche PL accettabile da cambiare. Così me lo metto nel cavo dell'antenna qua. Che quello non mi ispira fiducia. Ma io invece avevo intenzione di staccarne un barilotto che c'è proprio su questa antenna, no, perché non è bastato il cavo, perché la considero sempre un'antenna così di non importante, perché ci sono le altre, e quindi stavo pensando di stracciarne due PL vecchi e di metterci e risaldare il cavo direttamente, così c'è anche meno perdite e non rompe le scatole, tanto e chi lo tocca più da lì. Infatti, ma questo è quello che deve entrare nel commutatore, chissà perché fa così quel PL, eppure è uno di quelli che erano buoni. Domani se c'ho tempo lo smonto e vediamo un po'. vattene a cercare tu la roba buona, per carità. Stavo cambiando quelli delle telecamere, viene uscito tutti dalla busta nuovi, si è attaccati un attimo, poi sono andato a staccarle, ma è rimasto in mano. Siccome viene uscito c'è anche la molla dentro, quelle così, tutto mi è uscito. Poi ho provato l'altro, anche l'altro mi è rimasto in mano, ma delle cose così schifose, veramente, che non viene bene a dirlo. Cioè, ma non ti vergogni di fare dei prodotti del genere, per carità. Io c'ho un kit di quattro telecamere, no? Col suo tutto quello che occorre direttamente. E uno mi era rimasto in mano, mi ricordo, del VNC. Infatti non le ho piazzate, ce ne sono nella scatola. Ci sono quattro telecamere più il computerino che ci va attaccato, con l'hard disk dentro. Ma è roba molto vecchia. È vecchia. Si chiamano CCTV HDMI. Sì, la scatola non sono state mai usate. Assolutamente. Infatti c'è un BNC che mi era rimasto in mano, mi ricordo, quando le stavo controllando. Si chiamano AHD e poi ci sono quelle P. Sono circa, in tutto sono una ventina, c'è un grosso videoregistratore. Ed è sempre acceso giorno e notte, H24, collegabile in tutti i modi. Ogni stanza, ogni televisore che c'è in ogni stanza può vedere la situazione generale. E poi se sei fuori puoi controllarlo da esterno. Si può anche far ruotare volendo. Un lavoraccio a metterle, guarda. Micidiale. Infatti io non ne ho piazzato per il sicuro. Quattro sono. Sì, secondo il tipo che costa una fesseria, con 50 euro te ne esci. Dipende, sai, ogni cosa c'ha il suo prezzo, quindi dipende dalla qualità che dà. Infatti, io l'ho provato qua una volta e però non le avevo piazzate. Ho provato a vedere se funzionavano i buchi. A collegarli così al volo è abbastanza facile. Colleghi i cavi, le colleghi, se sono CCT come hai detto, poi le puoi provare anche sul televisore. Se c'è l'uscita V, le metti lì e te le guardi se funzionano o meno. Le mie invece non funzionano, se le attacchi alla televisione non funziona, perché danno una tranca, sono lo stesso col BNC in classiale, cioè hanno un'uscita digitale, quindi non si riesce a vedere. Bisogna farle una commutazione dal menu particolare, che però poi ti incasina la telecamera. Le mie ti fanno anche l'ingrandimento, volendo le puoi usare come sensore per far scattare l'allarme, hanno tantissime funzioni. Sì, beh. Io queste le avevo pagate, non mi ricordo, più di 100 euro le avevo pagate. No, io ne ho parecchie, guarda, ne ho parecchie, ne tengo, adesso non so se in scatola me ne sono rimaste 4, perché io le faccio così, cioè, siccome ogni tanto lo sbalzo termico, oppure quando c'è il sole che l'abbaglia per tanto tempo, il sensore si può danneggiare, oppure scariche elettriche, di fulmini. Quando ne brucia qualcuna, c'ho già la riserva, al fornitore di fiducia, ogni tanto lo chiamo, dammi 4 di quelle telecamere, spedisce. Infatti non le pago molto, ho capito, perché sono, ne ho comprate talmente tante che oramai. Ma la cosa che mi dà più fastidio alle telecamere, lo sai qual è? Sono i ragni sono micidiali. E cosa li fanno i ragni? I ragni, la notte quando entra in funzione l'infrarosso vede la ragnatela, e la ragnatela si riflette, praticamente riflette la luce dell'infrarosso sul sensore, e praticamente te li oscura. Tende a fare questo effetto disgraziato. Fortunatamente non sono tutte, ma siccome sono accessibili, essendo all'esterno, sono accessibili a questi animali, e praticamente si fanno un casino che qua non basta. Infatti ogni sera tocca andare, guarda, ci stanno un paio d'ore a rifare la ragnatela, sono una cosa impossibile veramente. Ho provato di tutto, spray, trick and track, ma che sono dei ragni piccolissimi, non pensare che siano ragni a malapena li vedi, sono una puntina, ma sulla telecamera lo vedi che questo salta da una parte all'altra, fa un lavoro che non ti dico, guarda, altro che un cinetto. Questo non la sapevo di ragni. È un problema serio. Ogni sera mi tra poco cioè passa la ronda, l'incarico è pulire tutto. Sono la bellezza di 20 telecamere da pulire, fate il conto. 20. È grosso, l'impianto è grosso. Fidati che qualche volta è venuto il vicino lì della polizia per chiedere, mi puoi dire chi è la macchina che è passata, sì, a che ora, fa il controllo, e io dai, perché ogni tanto a volte, sai, quando entra gente che ci passa più una volta, si sospettiscono subito, e allora bisogna sapere chi è, per vedere se uno che era di passaggio o se uno che di quelli strani, no? Sì, certo. Anche se qua le fa male, perché qua c'è tutta gente lessa di fucile e anche di qualcos'altro, quindi qua non è mai successo in tanti anni, non è mai successo niente comunque. Meglio che non succeda mai. No, per quello è proprio una specie di paradiso terrestre. Solo che ci sono in giro molti cani che la gente li lascia in giro e quello rompe un po' le scatole. Quella è l'unica cosa veramente che dà fastidio, quando ti lasciano il cane in giro. Poi se passano dei bambini, magari, perché qua si ferma anche un po' più su, si ferma lo scolabus, è pericoloso. E c'è gente veramente che sono di guarda, le persone che ci sono in giro ti fanno spaventare di quanto siano incoscienti veramente. Comunque si tira avanti. E allora, Giulio, ma che fine hai fatto? Ah, ma lo sai cosa mi sta venendo in mente, Gianfra? Siccome se gli è rotto il frigorifero, cioè il frigo funziona ma il congelatore no, e stava decidendo se prendersi un pozzetto e farlo aggiustare quel frigo, oppure cambiarsi il frigo, forse è fuori e non c'è. Infatti, ma quegli oggetti proprio non è che convenga tanto farli riparare, conviene prenderlo nuovo, a meno che non sia in garanzia. Già lo sai come funziona, una volta che si sfasciano è un macello, fanno spendere un sacco di soldi e poi non servono a niente, lo stesso si riguarda. E infatti, quello sicuramente è uno di quelli che ha due motori, e il frigo funziona, però quello del congelatore ha perso il gas sicuramente. testa oppure si è bloccato il motore. Infatti, bisogna che ci vada un tecnico lì e veda un po'. Sì, sono il diritto di chiamata, credo che sia 40 euro, se non è in garanzia ci perdi sulle basta. Sì, infatti. Ma perché dice il frigo funziona, il congelatore no. E allora vuol dire che non sta funzionando il motore oppure ha perso il gas. Ma il gas sono un po' difficile perché sono molto ermetici, sono sempre ben sigillati, quindi è più probabile che sia il motore. A me nuovo nuovo questo della Indesit, uno grande così come quello di Giulio, che sotto è congelatore e sopra frigo, metà e metà, è uno di quelli alti alti. Quello mi aveva perso il gas, mi aveva perso. Già è venuto Franco, me l'ha caricato, adesso è una bomba. Ecco. Avanti Roberto. Sì, buonasera, ciao Gianfranco e ciao Natalino, non so se c'è qualche un altro, non ho fatto ascolto, avanti. Ciao Roberto, Natalino, no, non c'è nessuno, siamo io e Gianfranco. E Claudio all'ascolto dovrebbe essere. Oh signor. Vabbè, avanti Roberto. Che si dice di bello? Sì, ci aramidando stiamo, come i poveri vecchi. No, ieri c'era un po' di confusione frequente, oggi è più tranquillo. Ieri c'era un sacco di propagazione, tutta la parte alta dell'Italia, Verona, Padova, anche Aosta, c'era Mario Romano, le FM a fondo scala, a 9.40 arrivavano qua. Poi attaccato a Pantelleria e poi c'erano i tedeschi e c'è sempre questo tedesco simpatico che ti registra e ti rimanda quello che dici, si diverte a fare così, ha fatto a tutti ieri e poi disturbava perché non lasciava parlare con quelli qua italiani, questo dalla Germania faceva lo splendido. Non sentivamo proprio la mancanza di avere anche i tedeschi. Ma poi la cosa bella è immediata, non lo conosco, dice, c'è stato Marco Condo, è un apparecchio che fa, non so se lo fa la Intec o che cosa, o la CTE, che come ricevi trasmette automaticamente. Sì, ci sono questi apparecchi, ma non sarebbe quello il problema, basta un computer per farlo. Vabbè, come diceva quello Natali, meglio un gusto che 100 malanni, no? Natali. E c'è il cane che sta dicendo che sta arrivando mia moglie. Ah, così dai. Un paio di giorni non ti ho sentito, infatti ho chiesto Gianfra ieri, ma Gianfra che fine ha fatto? Sono entrato tre giorni, non dico consecutivi, ma tre giorni più o meno, uno dietro l'altro, ma Gianfra non si è più sentito. No, stavo facendo dei lavori, ero impegnato. Quindi non è sempre che puoi, io diciamo lo uso un po' come break, no? La radio, le altre sono sempre ferme, quindi non c'ho neanche la scusa di dire che ero in ascolto, quindi sto sventiando un po' con altre cose di, sia di lavoro sia di carattere informatico, che è la stessa cosa praticamente. Vabbè, diciamo io lo vedo così come svago, è una cosa di un divertimento, la sera molte volte quando esco dal lavoro pille attacco, così un'oretta, una mezz'oretta, dipende quanta voglia c'è, oggi stasera esci, dai, vediamo se c'è qualcuno. Ieri c'era troppa gente perché c'era una confusione totale di queste sovramodulazioni, anche se i segnali erano fortissimi, solo che poi quando fai un bel collegamento ti metti a parlare, stai facendo una discussione, c'è il simpaticone che ti faceva questi disturbi. Sì, infatti io non ho. Vabbè, lo sta dicendo anche Natalino, non è esattamente la mia passione parlare con fuori, perlomeno parlare con in 27 con fuori, perché è una cosa che rimane in ogni caso sempre relativa, ecco, può essere piacevole, ma le prime volte poi ti annoia. Non è un collegamento, diciamo, è così un collegamento casuale, che molto spesso lo fai, tante volte non lo fai, a me piacciono un po' quelli cerchi, collegamenti, ecco, sono un po' differenti. Vabbè, diciamo, però collegare a Aosta, diciamo, non è una cosa molto frequente, non mi era mai successo, diciamo, l'Emilia, la Romagna, eccetera, è capitato, però Aosta ho detto, cacchio, questo qua la luce non pare, non so se ho capito bene, con 900 watt, potenza esagerata aveva. Sì, ma infatti è proprio quello che a me non piace, quando li sento neanche le rispondo, quando mi accorgo che hanno queste potenze, no, proprio è tempo perso. Se tu pensi che una nave, le navi che fanno fuori anche in Atlantico, massimo, c'hanno apparati da, proprio esagerando, ma non tutte da 500 watt e non li usano, lo standard lì è 250 watt, 200-250, eppure parlano lo stesso dappertutto. Qua che è anche una frequenza più alta, e con la propagazione, io mi ricordo, parlavo della macchina senza problemi, con 5 watt ti senti quello, 500, 600, 700, ma sono cose ridicole per chi un po' ci bazzica su queste cose, sono proprio... Io dici, già lo so, ma anche i radioamatori la stessa cosa, sta diventando una cosa, prima c'era un po' di divertimento andare in quel RP, diciamo, c'è stata la moda del periodo, tutti cercavano di dire, ho collegato con 250.000, adesso cacchio a chi c'è la più grande, miliardi da 4, 5, 6 kg, ho visto anche, vabbè, quelli erano a livello sperimentale di questi radioamatori, c'ho tutto il video, hanno fatto un apparecchio in pari da 10, nel totale 15.000, però sono arrivati a 10.000 perché il gruppo non riuscivano a dare energia, sono arrivati a 10 kW, raffreddamento a liquido, una cosa spaventosa, modificato un impianto di trasmissione broadcasting adattato per quella banda che dovevano utilizzare loro, avevano 10 kW in antenna. Ci sono ancora Natalino? Scusa, vabbè, mi hai scollato il telefono, pensavo fosse una cosa importante, invece era... stavo cercando. Grazie, stavo dicendo, boh, non me lo ricordo più. No, ho detto, no, pensavo non stessi uscendo di radio, infatti ho detto, cacchio, sto parlando, non c'è più nessuno, forse non mi sentono più. Invece sta voce, no, ecco, sto parlando di questi radioamatori sperimentatori, veramente bravi, che hanno fatto in questo capannone, hanno costruito questo, adattando un trasmettitore di quelli broadcasting di qualche radio, non so di che cosa era. 15 kW poteva tirar fuori, però per problemi di alimentazione con il gruppo elettrogeno non poteva arrivare più di 10, con raffreddamento al liquido, a vapore, una cosa enorme, dove solo il circuito di alimentazione era spaventoso. Sì, vabbè, ma quelli sono casi particolari di test, di prove, di studi, eccetera, eccetera, eccetera. Quando senti quello dalla Sicilia lì, con quanto sigo, 900 watt, eccetera, se ne scappa la risa, non so, non è che è quello che stanno facendo questi, cioè sono ridicoli, capito? Quindi se tu pensi che quello che conta è sempre comunque l'antenna. Poi si lamentano a fine mese che le arriva l'Enel col bigliettino dei ringraziamenti per aver speso una follia in corrente elettrica, perché poi questi ciucciano di corrente, l'usi oggi, l'usi domani, sono kilowatt che partono. Ma tu stai accendendo a casa, ho visto questo tipo nel camion, molto famoso, adesso non mi ricordo come si chiama, forse fa il calduro proprio, c'ha una motrice, c'ha un camion della Iveco, credo che sia forse uno Scania aveva, ha messo questi lineari della Bias, che sono tra i migliori, diciamo, in assoluto, parliamo non paragonabili al 1200 della ZG, funzionano a 24 volt, però lui li ha collegato due in serie, per cui ci aveva intorno ai 1300 watt effettivi nel camion, siccome la corrente non bastava, hanno avuto questi super condensatori, c'è tutto un impianto intanto tu devi vedere, gli dava 30 volt, l'alternatore di spunto gli dava, perché tanto non lo usi in continuo l'apparato, al momento che parli per pochi secondi ti dava 30 volt, per cui aumentava ancora più la potenza, e questo c'aveva un paio di kilowatt, quasi un paio di kilowatt dentro il camion, una cosa, e parlavo tranquillo, ha fatto il video, io dico, se ti vede la polizia, cacca, è possibile che devi usare 5 watt e tu ne hai quasi 2 kilowatt. Sì, ma poi non c'è tecnica di lì, capito? Perché se non c'è soldi si può comprare quello che vuole da 1, da 2, da 3 kilowatt. Se c'è soldi lo prende, però no. Quell'uso no, è un uso improprio, no. Cosa di ne fai? Sono soldi veramente buttati all'aria. E poi devi tenere presente che ogni incremento di potenza c'è un incremento anche di disturbo. Se esci con un baracchino che è stato progettato con i filtri per andare sui suoi 4 watt, le tiri il collo, fai questo, fai quell'altro, inizi a sparare armoniche, che è qualcosa di micidiale, poi lineare le armoniche, se le prende e te le moltiplica con la potenza. Cioè sono cose che sono su tutti i testi, basta un po' studiarle, eccetera, questo invece non è fatto nulla. Ma sono cose ridicole comunque, tu pensa che con un apparato amatoriale già di con i 100 watt c'è gente che ha collegato mezzo pianeta, anche con antenne non proprio decenti, però ha collegato tutto. Le potenze un po' spinte sono giustificate sui 160 metri, è una frequenza che richiede un pochettino di potenza, anche sugli 80 metri, ma non certo a quei livelli, ecco. Sì, ma la cosa che io dico sempre, è inutile che io ho un kilowatt di apparato, l'antenna riesco a farmi sentire in Groenlandia, però cacchio, se io non ascolto gli altri, che motivo c'è di arrivare a 9,60 e poi non ascolto nessuno? Io dico sempre quello, infatti quando vedo questo discorso, chi conta l'antenna? Cioè tu puoi mettere la potenza che vuoi, poi non riesci a ricevere, che cacchio me ne faccio, che lui ti ascolta per dire quello che arrivavi in Santiago 2, adesso arrivi in Santiago 7, che è dall'altra parte dell'Italia. Ebbè, però tu a lui non ascolti, e cosa ne fa? Infatti è un discorso puramente di forza, di gente che di telecomunicazioni non capisce una mazza. Ma tu dimmi, tu guarda, molti apparati militari escono con potenze ridicole, e poi vabbè, cioè c'è da fare che metti dietro in caso di necessità, che te le levano talvolmente. Ma secondo te quelle case, che sono tre case professionali, di altissimo prestigio, che fanno studi sui vari sistemi, eccetera, ti costruiscono apparecchi da un watt e mezzo, così per gusto, e non potrebbero farti direttamente un apparato da un kilowatt. Ma davvero pensiamo questo, quelli navali che vanno a potenze di 200 watt, sono apparati che costano 6-7 mila euro l'uno. La gente pensa così, che su una nave di linea, che c'ha anche delle norme da rispettare, non possono permettersi di mettersi 3-4 kilowatt. Eppure le norme sono quelle che mettono quegli apparati. Eppure li sentono, io nei tempi d'oro sentivo passato per il radio che comunicava con le navi italiane che erano in coso lì in Atlantico tranquillamente. Adesso devono avere la potenza che non serve a niente, sono soldi lampadi. Sì, ci hai detto bene, soltanto per dire, come quello che c'ha il Ferrari e lo usi in città e non puoi accelerare, la stessa cosa, alla fine il discorso è quello. Per me ci deve essere sempre un giusto equilibrio tra la ricezione e la trasmissione, è inutile che io arrivo fortissimo e poi non ricevo niente, io non per vantare la mia stazione, cioè, da parte mia credo di avere un giusto equilibrio, perché soprattutto in ricezione dico la mia, poi c'è gente che arriva molto più forte di me, però io ricevo molte stazioni che altri sono in difficoltà, io preferisco ricevere ricevere molto meglio che trasmettere in profondità. Il discorso mio è quello, adesso c'è un giusto equilibrio, perché ho notato molte volte, io chiedo i rapporti degli altri, come ti arriva, però molte volte altri dice, arrivano più o meno come me di segnale, però vabbè che potenza ci metto, ma poi dico, quando ti arriva lui ti segna 7, a me magari mi arriva a 9, e quella è la soddisfazione di dire, no, a me mi sta arrivando 2 dB di segnale rispetto a te, sono tanti, 2 dB, vuol dire che stai andando, cacchio, il doppio, quasi il doppio, no vabbè 2 dB no, ma 3 dB di segnale stai andando il doppio della potenza di quello che riceve lui, e non è poco. Ma infatti la gente non fa calcoli, che lavora a potenza te la dà l'antenna, è sempre valido il vecchio detto, spendi qualche soldino in più dall'antenna e fregatene dell'apparato. Questa è la valida tanti anni fa che c'era meno traffico, ovviamente se c'era l'apparato buono che è sensibile, che non riceve disturbi da altri, è ovvio che molto meglio, ecco. C'è gente fissata che crede solo perché c'è il lineare. Guarda, prendi questo apparecchio sta uscendo adesso con esattamente 1,5 watt, eppure mi senti, non mi ha detto niente, poi penso che il segnale sarà oltre il 9, in termini tecnici un segnale oltre il 9 è già un segnale molto forte, anche se la gente pensa che servi S9 e sei basso, perché c'è questa attitudine sbagliata a pensare che sono arrivi o fondo scala non ti sta funzionando la radio, è una cosa ridicola. Certo, beh, comunque tu sei 9 più 25, io ti sto ascoltando, e quello è il discorso, la gente, se sei 9 sei basso, devi arrivare minimo 9,30 per essere credibile, dai, infatti io dico, chi conta la radio, tu puoi arrivare anche 7, però se c'è una radio pulita e chiara che te frega, è quello il discorso. Poi c'è gente che gli piace la maniera della forza, io non ne ho mai messo lineare, non ne ho mai avuto, me l'hanno prestato una volta uno grosso, mi pare era un 500-600 watt, tanti anni fa, come l'ho preso è rimasto, poi sono portato via, ma non ne ho mai utilizzato perché non mi interessa. Io ho detto, chi conta l'antenna? Se tu c'hai una buona antenna, una buona posizione, ti nafuti del coso, della potenza. Poi quelli che soffrano di potenza, il 90% di quelli che utilizzano i lineari, il 90% di quelli che ascoltiamo sono tutti con dei problemi di saturazione, di radio che se ne mangia un pochettino, incomprensibilità di modulazione, eccetera eccetera, e vedi picchi negativi, difficile trovare un giusto compromesso quando metti il lineare, perché sono tutti sovraccarichi, perché danno magari un input troppo alto, e c'è sempre a dire, dai, per avere 5 watt in più magari dai, ti crei un generatore di armoniche. Sì, ma io guarda, sia in V sia in U sia in HF non ho mai, ripeto mai, creato disturbi ad alcuno, non si è mai lamentato nessuno del condominio, niente, proprio inesistente la stazione, eppure trasmettevo. Volendo anch'io ho la potenza, non è che non ce l'abbia, se devo operare in 160 metri, permetti che esca almeno con centinaio di watt, 150, volendo ne può erogare questo affare anche, credo che arrivi a 300 watt, se non ricordo male, in banda laterale. Sì, anche 4 forse ne danno, no, 300 dovrebbe essere, non mi ricordo neanche quanto aveva, figurati, ma è sempre spento, è un oggetto, non dico inutile, ma quasi. Però è ovvio, quando lavori in 160 metri qualche cosa ti devi attaccare, perché sennò, soprattutto quando c'è molto rumore, non riesci a sovrastarlo, ma è solo per quel motivo. Però la cosa importante in ogni caso sono le antenne. Allora glielo spiegano alla gente, basta che attacchi questi oggetti qua, si sente più forte, poi magari c'è quello che in qualche altura con un portatile che lo fa secco. Sì, è vero, ma sulle antenne ho fatto tante, la nonna ha detto tante prove negli anni passati, te ne accorgi, cioè, fatta ti piace una bella direttiva, e infatti adesso quando ho tempo la devo installare, ce l'ho da novembre, è pronta a installare questa antenna. Sì, la cosa importante un'altra l'antenna, no? Tutto l'altro, poi anche quello che molta gente si meraviglia quando riesce a rifare di propagazione, ma di propagazione sappiamo tutti che è una cosa solo quasi virtuale, diciamola così, dai, perché l'atmosfera che è come avere un ponte radio. Adesso c'è, dopo non c'è, adesso c'è, dopo non c'è, però il significato della potenza può arrivare forte, quello che magari c'ha 5 watt per questione d'antenna, e può arrivare più debole quello che c'ha, che sta pompando 1 kW magari da una posizione più sfavorevole o meno, insomma ci sono tante cose che la gente ignora o pensa solo che basta attaccare per essere furti, ma non funziona così in elettronica. Sì, quello è normale, è uno specchio, l'atmosfera fa da specchio, ma in quel momento lì lo specchio non è bello aperto, nel senso non riflette bene, per cui magari tu puoi avere potenza, lui magari quello con la posizione migliore riesce a guantarlo, focalizzare meglio il centro dello specchio, come una lampada, tu quando la metti esattamente al centro di una lente riesci ad andare in profondità, se invece ti sfrutti appena, pur avendo potenza non hai la stessa profondità che può avere, sempre la logica è quello lì. Sempre quella, e che conta è sempre l'antenna prima di tutto, è come nel campo Wi-Fi, tu puoi avere il più bello amplificatore del mondo, ma chi ti dà il suono sono le casse, ci deve essere naturalmente un giusto equilibrio, non puoi mettere un radione con delle casse allucinanti, però se tu metti un buon amplificatore con delle buone casse è una bella resa, però se metti un buon amplificatore e casse scadenti è quello il discorso. Infatti, ma voglio far capire a certa gente che purtroppo non è così semplice, la cosa essenziale è e rimane sempre quella di una buona installazione e di sapere un po' almeno i principi base della radio. Comunque è così, che ce lo fa. Tu pensa che in digitale non si considera più il segnale oramai, ma il BER, praticamente il rapporto con cui arriva il dato, il segnale è molto molto relativo, perché in digitale anche se arrivi a S0 e il BER passano tutti con scarsa correzione d'errore, la radio è perfetta, non c'è assolutamente differenza tra un segnale 940 o 960 a un segnale S0, capito? Quindi in quel mondo lì, che è quello che io ho trovato preferisco, le regole sono totalmente diverse, perché innanzitutto si parla di qualità e poi non sono necessarie, anzi sono addirittura controproducenti di potenza elevata. Sì, infatti è anche un po' più complicato, io parlo in ricezione, quando c'hai un impianto digitale di ricezione, come sono tutte ormai di TV digitale, tu è inutile metti, se c'è un segnale debole, amplifichi, ma cosa amplifichi se a un certo punto? Perché sono le informazioni che devi amplificare, tu non le puoi amplificare, per cui il segnale o si vede o non si vede, no? È come l'analogico di prima, c'era l'effetto neve, tiravi un po' di guadagno, riuscivi a migliorare la cosa. La qualità adesso niente, c'hai troppi parametri da modificare e alcuni di questi parametri non li puoi modificare, perché se ti arrivano un limite minimo di informazioni di bit a seconda non riesci a tirarli fuori, non li puoi amplificare, se ne arrivano 10 ne dovrebbero arrivare 40, che cavolo fai? Lo stesso discorso che hai fatto tu, è quello lì, per cui quando c'è un limite di soglia che ti permette di farti sentire non c'entra più niente la potenza, così è nel trasmissione la stessa luce. Sì, ma infatti quando uno vuole capire il perché del digitale rispetto all'analogico, il perché tutti stanno passando di lì, è molto semplice, innanzitutto c'è un discorso di risparmio energetico, consumano enormemente di meno, quindi ti occorre molta meno energia, sono molto più affidabili dal punto di vista della qualità, la chiarezza di voce totale. Poi c'è il fattore di interoperabilità anche, che ti permette di fare tutto. Quindi mentre stai parlando puoi fare messaggistica, puoi fare tante altre cose. Però alla gente continua a non piacere perché pensa chissà che cosa, essenzialmente perché c'ha difficoltà a capire proprio i principi di funzionamento, cosa che sono essenziali per non fare pasticci, ecco. Allora, nel digitale io parlo del broadcasting, sto parlando del discorso di quello, e le formazioni sono sempre uguali, non è decadimento di niente, nel senso tra un punto ripetitore all'altro, come arrivi, non c'è un decadimento di qualità, e mentre nell'analogico c'era, un pochettino però c'era, perché il segnale arrivava, io parlo di stazioni di un certo livello, arrivava in banda, non avevi problemi di latenza, l'unico problema del digitale, lo sai cos'è, anche se stanno mettendo piede con 5G, stanno cercando di sopperire, hanno già sopperito questo problema, il ritardo, perché se il segnale deve passare tramite un computer, deve rielaborare quei file, quelle informazioni, ci passa un tempo che può arrivare anche a 1 o 2 secondi a seconda dell'informazione, soprattutto quando sono segnali televisivi, e c'è un leggero ritardo di cose, e quello è il limite del digitale, la latenza si chiama, mentre nell'analogico questo non succedeva, però succedeva che c'era un decadimento di qualità di segnale, aumentando le distanze automaticamente c'era un peggioramento di cosa, per altri fattori esterni. Adesso con 5G questo discorso l'hanno quasi eliminato, la latenza è di millisecondi, per cui ce l'è quasi in tempo reale, è l'unico problema del digitale. E poi c'è il vantaggio con la trasmissione digitale, che normalmente dal 50% in meno di potenza sino a un terzo della potenza normale, per avere la stessa qualità di segnale, stiamo parlando di qualità. E poi la cosa più importante, dallo stesso segnale, dalla stessa frequenza ne puoi trasmettere diverse, e di segnali audio non dico decine ma quasi, segnali video anche 5 sulla stessa frequenza in contemporanea, e questa è la cosa più importante, soprattutto per risparmio di energia, soprattutto di inquinamento elettromagnetico. Avanti a te, Gianfranco. Sì, poi c'è un'altra cosa da dire, che se tu prendi 2 televisori e li metti nella stanza, entrambi digitali, per uno più vecchio e un altro moderno, noti subito che uno dei due, o quello nuovo o quello vecchio, avrà una diversa latenza, quindi ti senti l'audio, perché se ne puoi accorgere solo dall'audio, che hanno una certa differenza tra quello che arriva su uno e quello che arriva sull'altro. E questo è spesso dovuto a 2 fattori. Il primo fattore è quello della qualità. Il nuovo può essere più in ritardo perché ha più bit da elaborare e quindi c'è una latenza leggermente superiore. Non stiamo parlando comunque di secondi, stiamo parlando di un quarto di secondo. Oppure può essere viceversa, può essere che il televisore nuovo c'è un processore e una memoria, perché il televisore non è altro che un computer con il proprio sistema operativo, che è più veloce perché è più potente, e un altro televisore, quello più anziano, che magari fatica a elaborare i bit, o addirittura proprio, come capiterà a molti televisori con il cambiamento del codec, non riesce più a elaborare perché non ha la potenza necessaria per decodificare tutte le compressioni, i bit compresi che le arrivano. Tutto lì. La stessa cosa succede per le radio. Nell'IRM, guarda, ti posso assicurare che penso che sia quasi impossibile vedere la differenza tra analogico e digitale, perché stiamo parlando di banda stretta. Sul tetra un pochino, ma devi considerare che sono 4 slot, quindi mentre il DMR ne ha 2. E comunque le latenze non sono tali, perlomeno per il DMR, da rendere difficoltosa ad esempio eventuali servizi di emergenza, perché guarda, tu pensa ad esempio a un'operazione di polizia in cui ci sono i tiratori scelti. Ovviamente se le dici di sparare, quello deve istantaneamente sparare, proprio appena tu premi la portata e dici fuoco, quello deve sparare. Se ti arriva dopo mezzo secondo, magari l'obiettivo si è spostato già di un metro. Quindi è per quello che c'è questo problema, che in America è stato grosso. Sì, infatti il 5G è molto criticato, è proprio il primo principio è per questo, per la latenza. Continuando a discutere di questo problema qua, la RAI, cioè il segnale campione orario, ed è collegato all'Istituto Galileo Ferrarese di Torino, ed è un segnale campione all'orologio atomico, eccetera, eccetera, si sono resi conto che non è più un segnale preciso, perché vedi, se tu quell'orario lo ascolti a Messina o lo ascolti a Torino, c'è un intervallo di tempo, può essere mezzo secondo, 13 millisecondi, non è più un segnale perfetto campione, perché quei bip, bip, non so se l'hai saputo, cioè sono dei segnali campione, corrispondono esattamente a certi secondi. La RAI se ne è accorta, infatti voleva toglierlo completamente, avevano deciso di eliminarlo, dice non è più credibile quel segnale, non è più l'ora esatta, perché c'ha un margine di errore, diciamo, abbastanza evidente, diciamo, per la maggior parte delle persone è ininfluente, però per qualcuno che lo utilizza come campione di riferimento è importante. Il discorso della latenza del 5G, che l'hanno abbassato in un modo quasi impercettibile, e vabbè, dopo te lo dico del 5G, e a me mi è capitato il satellite tanti anni fa, quando c'era il 2006, c'era la partita di calcio, la finale dei mondiali, e ci abbiamo guardato tutti nel nostro villaggio dove stavamo di lì, tutti erano col TV a maxi schermo, fuori, eccetera, eccetera, e io ero l'unico che me lo sono guardato per conto mio col TV sat, e lo guardavo direttamente dal satellite. Quando hanno fatto i gol, io ci avevo 2 secondi di anticipo, io dicevo no, e no, dopo 2 secondi loro esultavano, quelli che erano a fianco a me nelle altre case. C'era un ritardo tra il digitale terrestre e il satellite, è molto reale come tempo, infatti te ne accorgi anche quando guardi le mani. E poi se tu guardi la RAI in streaming, ancora di più questo errore si nota, ancora di più. Avanti a te, Gianfranco. No, di lì il discorso è un pochino particolare, ecco, non è esattamente, si può dire, non è esattamente esatto. Il satellite di sua natura ha molta più latenza, per un motivo ovvio: il satellite si trova a parecchi migliaia di chilometri di distanza, e quindi anche se sei in diretta comunque devi considerare due latenze. La prima latenza è quella del trasmettitore che è puntata sul satellite, e la seconda è quello che impiega il satellite a rimandare la Terra, e quindi sono già, la distanza la devi già moltiplicare per 2. Quello terrestre, se tu hai notato un effetto del genere, è dovuto più o meno allo stesso motivo, ma di lì sono i vari ripetitori che non sono altro, anche lì dei computer con processore, eccetera, che hanno diversi tempi di trasmissione, quindi più saranno i ripetitori su cui passa questo segnale, ovviamente più sarà il tempo di latenza, quindi può essere un vantaggio per uno e per l'altro, soprattutto tenendo presente e non dimenticando che queste trasmissioni sono comunque trasmissioni che sottopongono, sono molto pesanti, perché includono un video che di norma minimo è alta definizione, e se poi parliamo del 4K allora abbiamo praticamente chiuso, perché già lo sai, basta avere un filmato 4K e c'è un rallentamento pazzesco. Quindi è normale che sia così. Il satellite di norma è sempre più lento, proprio per questi motivi di distanza. Infatti lo vedi anche nella RAI o a Mediaset, quando fanno i collegamenti con i corrispondenti da lontano, che hanno questo ritorno lento, ed è così. Purtroppo sono leggi fisiche di lì, è molto difficile metterci rimedio. No, li stanno aumentando con dei, diciamo, con dei sistemi nuovi. No, però il discorso è giustissimo quello che hai detto, più ripetitori ci sono, più tempi di latenza aumentano, li moltiplichi perché c'è un computer che deve elaborare, eccetera, eccetera. Però tieni presente che Rai, da Sassari, Monteoro, arriva direttamente via satellite, per cui il tempo che impiega il segnale al satellite a arrivare a terra e la terra a ritrasmetterlo al coso, rimedia, non dico che sia il doppio, ma calcola il doppio del tempo. Se tu lo ricevi direttamente diretto dal satellite, il tempo che impiega è inferiore rispetto a quello. Mentre se il segnale viene arrivato da un ponte mobile, per dire, al ponte ripetitore, come capita quando ci sono eventi tipo rally, ciclismo, eccetera, eccetera, che c'è una stazione a terra che poi la ritrasmette al ponte e il ponte te la ritrasmette a te. In quel caso è più breve il passaggio, per cui la latenza è più bassa. Però più ponti ci sono, come hai detto tu, più passaggi ci sono, più c'è difficoltà, diciamo, la latenza aumenta. Però adesso stanno usando sistemi di compressione con computer super veloci, per cui sa sempre di meno questo problema, è sempre leggermente più basso. Col 5G è scomparso, non c'è più il problema, infatti l'hanno fatto non tanto per il discorso della oltre per quello, per il 5G è stato fatto soprattutto per il discorso per le macchine senza guida, senza pilota, perché tu se c'è un ritardo di mezzo secondo, in mezzo secondo andando a 100 km orari percorri, per dire, 20 metri, 30 metri, non lo so, bisogna calcolarlo. Se c'è una latenza di 3 millisecondi, per dire, perché percorri 3 centimetri, io sto dando delle cifre così, e quello è molto importante. Dopodiché per la telemedicina, quando ci sono delle operazioni che devono fare da Milano, devi parlare con un altro operatore che si trova a New York, prima il tempo di latenza era importante perché tu dovevi toccare un nervo, una parete, qualche vena, non lo so, io sto parlando così di cose mediche, qualunque cosa, basta che tocchi una cosa sbagliata in quel momento lì, ti dice, ti dà un input e tu fai danno, soprattutto quando stiamo parlando di questioni nervose. La cosa importante è che la gente si sta lamentando, ci crea problemi, ci spacca il cervello, non è assolutamente vero, perché il 5G, mi pare, l'ho già detto altre volte qua, le antenne sono più ravvicinate, il campo elettromagnetico è molto ma molto più basso rispetto a quello che potrebbe essere rispetto al 4G, anche se utilizzano frequenze più alte, per cui ci sono anche altri problemi. Di nuovo a te Gianfranco. Diciamo, per la telemedicina non ci sono esattamente dei particolari problemi relativi, perché spesso nelle operazioni sono fatte in emergenza, se sono operazioni programmate sono secondo degli step particolari e quindi possono anche essere lenti, avere mezzo secondo in più o mezzo secondo in meno non le cambia la vita. Il problema vero si riscontra su un'altra attività che, di cui mi sono un po' come dire, per curiosità studiato, che è relativa a quella dei droni. I droni, quelli militari, come tu sai, sono tutti comandati da centrali a terra e sono comandati in diretta per un certo tratto. Quindi al massimo credo che ci sia un ripetitore di mezzo, però al massimo. E questo proprio per un problema di latenza, ma che lì è reale, perché se è necessità di salire istantaneamente in quota, o da abbassarti o di colpire anche un obiettivo o di scattare foto, l'input deve essere pressoché immediato. Quindi si sono accorti, soprattutto con le missioni fatte a distanza, ti parlavo ad esempio che molti droni, anche i nostri, partono da Sionella, una volta che superi il limite, diciamo, dell'orizzonte in cui a quelle frequenze il drone non ti risponde più, il drone diventa indipendente praticamente, passando via satellite. Tu vedi le immagini, è vero, vedi tutto quello che il drone fa ed è vero, però ci sono delle latenze che sono inevitabili, perché non è tanto un problema tecnico di velocità eccetera, è proprio un problema fisico di distanza. Quindi passando via satellite cosa succede? Che se tu inquadri un obiettivo e le spari, se fosse fatto così in tempo reale che c'era davanti, lo colpisci, ma di lì proprio non ne centreresti uno con quei livelli di latenza che ti danno i satelliti. E quindi tutti i droni hanno a bordo quello che si chiama intelligenza artificiale, quindi prende le decisioni da solo, se le dici appena poi spara, quello lì insegue l'obiettivo da solo, se tu gli hai dato l'ordine di sparare, lui spara. E infatti l'unico problema è se nel caso in quel mezzo secondo ti accorgi che l'obiettivo non è più necessario colpirlo, potrebbe succedere che quello spara lo stesso, ecco. Sì, sì, questo, infatti stanno lamentando di quello, quel drone turco. No, allora la latenza, ti devo dare un appunto, allora la latenza per certi tipi di infortuni, parliamo di operazioni, te lo dico con certezza, tu diciamo operazioni di routine, anche se c'è un secondo non succede niente. Quando fai, ti dico un intervento specifico, perché è capitato a una persona carissima, amica mia, quando ti fanno un'operazione elettrica, su campo elettrico, parliamo di tachicardia e cosa del genere, di lì devi fare, crei una crisi alla persona, istantaneamente ti appare su queste apparecchiature il problema elettrico, ti dice l'interruzione elettrica, tu devi sparare un raggio laser, si fa una tachicardia parossidica, si chiama questa roba qua, ti mettono una sonda, te la fanno entrare dal linguine, arriva sino a quasi vicino al cuore, ti sparano una, utilizzando delle microfibre, cose del genere, dei raggi, un raggio laser che ti brucia proprio quel fascio di nervi, deve essere istantaneo, perché se c'è un ritardo, infatti è un'operazione molto ma molto delicata e non lo fanno tutti, in pochi ospedali specializzati, questo tra l'altro è stato inventato a Milano, ti posso dire tante cose perché mi sono informato, c'era questa persona carissima amica che l'ha fatto questo intervento, di lì è una cosa molto ma molto difficile, di altissima precisione e tempo, soprattutto devi rispettare dei tempi immediati, per cui come lo vedi, tac, devi schiacciare ed essere fortunato di prendere quel momento lì, perché se sbagli li puoi creare dei problemi e bisogna mettere un bypass. Di nuovo a te, quello del drone, ho letto da poco, questo turco, infatti una volta che gli ha dato l'input, c'ha l'intelligenza artificiale, non puoi fare niente, non puoi tornare indietro, e si stanno lamentando di questo, ed è il primo caso che è successo, che l'hanno provato i turchi, stranamente. Avanti a te, Gianfranco. Aspetta un attimo, Gianfranco, vi siete dimenticati di me con la scusa dell'intelligenza artificiale, vi siete dimenticati di quella reale. Ho chiamato 20 volte, Natalica. 20 volte. Forse ero in cucina, perché a quell'ora già lo sai che devo cenare, vabbè. 10, 3. Tu mi hai detto, sto andando per il cane, non so che cosa. Poi ti ho richiamato 2 o 3 volte, infatti poi si è allontanato un attimino anche Gianfranco, ho detto, boh, ma non sto uscendo di radio, e poi è stato Gianfranco, e mi ha detto che stava rispondendo al telefono. E avanti di nuovo, Natalia e poi a Gianfranco. No, io vi stavo ascoltando perché stavo cenando, no? Siccome deve essere, mi ha chiamato quando sono andato a aprire a mia moglie e non ti ho sentito per quello. Ma mi riprendi, Gianfranco? Sì, Natali, confermo comunque. Avevamo capito che io ho capito che è uscito col cane addirittura. Sì. No, comunque Robè, siccome diciamo in quel campo che stai dicendo tu, c'ho proprio esperienze personali, io ti posso fare nome e cognome di chi le ha iniziate queste operazioni dagli Stati Uniti verso l'Italia, che fa, ma non so se lo conosci, lo conosco anche di persona, il professor si chiama Papone, che è stato il pioniere di questi, delle operazioni robotiche a distanza, che è un noto aritmologo cardiologo, che ha prestato la sua opera esattamente al San Raffaele di Milano, insieme a tutta l'equipe. Guarda, è un tipo che si assomiglia a Danny DeVito, quindi basso, veramente basso, cicciottello, però è un cranio. È stato il pioniere di queste operazioni, quindi il problema di latenza c'è perché è fisico, c'è poco da fare, è proprio una legge fisica che ci sono i tempi di elaborazione e i tempi di azione, così detti. E quindi quel tipo di operazioni hanno i loro limiti. E prima di fare quelle operazioni, diciamo, sono aiutate soprattutto dal personale che c'è lì in quel momento, che si accorge se c'è da metterci mano in tempi reali o se l'operazione può proseguire sotto suggerimento oppure lasciar fare, diciamo, la parte robotica. Insomma, è molto più complessa di come la stiamo facendo noi, ovviamente, però la latenza è un nemico comune che è dettato dalle leggi fisiche. Puoi avere tutti i processori più veloci che sono, ma quando parliamo di distanze, le distanze devi percorrere, anche se sono alla velocità della luce, che per noi è il limite. È così, e tra l'altro poi la velocità della luce non la raggiungi, la raggiungi solo con la luce, che però se passa tramite le scuole di bottiglia, ce ne sono tantissimi, è condannata al ritardo. Così. Sono le 8:20, tra poco io ne approfitto per sganciare. Comunque quello dei droni penso che sia il più azzeccato, perché è il problema più sentito nelle operazioni di guida, di soprattutto tattiche. Allora, Gianfranco, hai detto la cosa che mi ha anticipato, hai detto il professor Papponi del San Raffaele di Milano, è il luminare di queste cose. Infatti questa persona che ho fatto operato, l'ho fatto accompagnare io tramite lui, che doveva operare a Milano, l'hanno operata a Nuoro, all'ospedale, come si chiama, non mi ricordo neanche il nome dell'ospedale, e sono gli allievi del professor Papponi di Milano, che è il luminare di questo tipo di cose, l'ha inventato all'incirca 20 anni, 25 anni fa, questo tipo di intervento, poco